La mia canzone nascerà del tuo sorriso e dal pensiero che tuo cuore ha scelto me. Dirò il tuo nome cantando dolce note che insieme al vento verranno fino a te. La mia chitarra piangerà di nostalgia quando la sera qui da me tu non verrai. E nel mio cielo non ci saranno stelle quando i tuoi occhi non guarderanno me. Fantasia, nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Vivo d'amore per te, e nella mia fantasia nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te. Quando la voce di un ragazzo innamorato vibra d'amore, da calore più che mai, e per restare nella donna che lui sogna tutto l'amore che si nasconde in lei, la mia canzone nascerà del tuo sorriso e dal pensiero che tu vuoi bene a me. Dirò il tuo nome sospirando dolce notte che voleranno col vento fino a te. Vivo d'amore per te, e nella mia fantasia nasce la mia melodia con le dolci parole che dedico a te.